fede ed opere sembrano due parole inconciliabili. Non solo. Nell'ambito religioso vi è una netta spaccatura tra cattolicesimo e protestantesimo, non solo in merito al valore della fede, ma soprattutto riguardo alle opere. Per questo motivo ci limiteremo a considerare il valore delle opere alla luce della parola di Dio. Di cose se ne sono dette in merito alla fede e alle opere, ma forse l'opinione più obiettiva è quella che ho trovato in un periodico evangelico. Mentre la Chiesa di Roma fa naufragio confondendo legge e Vangelo, la Chiesa evangelica è esposta al pericolo di separare la legge dal Vangelo. Il primo errore mette gli uomini nella condizione di salvarsi con le proprie opere. Il secondo porta gli uomini a pensare che essi possono essere salvati vivendo nei loro peccati. Venendo una tale riflessione dal versante protestante, questa è un'autocritica seria e terribilmente vera. Infatti il messaggio centrale della parola di Dio e degli evangelici è che si è salvati solo per grazia, mediante un atto di fede, e di conseguenza la salvezza si ottiene senza l'ausilio delle opere. La Scrittura non lascia dubbi. Indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è che distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per far l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati, che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede di Gesù. Dove? E dunque il vanto è escluso. Per quale legge? Quella delle opere? No, ma per la legge della fede. Noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili. Poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Romani 3:21-31. Se le opere non sono un mezzo di salvezza, che valore hanno per l'uomo? Se non si è salvati tramite una buona condotta, non vale la pena fare ciò che si crede bene e dare sfogo ad ogni nostra inclinazione malvagia? Da un certo punto di vista sarebbe logico lasciarsi andare senza freno nel piacere del peccato, perché una volta perduti tanto vale esserlo fino in fondo. Eppure per chi desidera incontrare favorevolmente Dio, per chi non vuole subire la condanna del diavolo e dei perduti, le opere hanno un grande valore. L'Apostolo Giovanni, nel suo Evangelo in merito alla ragione per la quale l'uomo è perduto, esprime una sentenza che fa rabbrividire, per poi esprimere il valore delle opere prima della salvezza. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Giovanni 3:19-21. Dunque la ragione per la quale gli uomini sono perduti è data dall'aver amato maggiormente ciò che è malvagio invece del bene. E non solo. Gli uomini che andranno di propria scelta alle pene eterne, nella loro vita hanno scelto o preferito compiere il male, e per questo sono impossibilitati a conoscere la verità. Così, anche se le opere buone non servono alla salvezza, dobbiamo proclamare con forza che esse sono indispensabili per arrivare a conoscere Dio e la sua volontà. Una buona e giusta condotta è come il sentiero giusto che porta alla giusta meta, mentre compiere il male è un sentiero sbagliato che porta solamente ad una meta sbagliata. Le opere buone non hanno nessun valore ai fini della salvezza, ma senza di esse non possiamo essere salvati. È vero che Dio salva delle persone anche dopo una vita vissuta all'insegna del peccato, come il ladrone sulla croce, ma è altrettanto vero che Dio conosce nel profondo il cuore di tutti. Il Dio delle Scritture si mostra pietoso verso l'uomo pio e retto verso l'uomo retto. Si mostra puro con il puro, ma si mostra astuto col perverso. Salmo 18, 25-26. Questo comportamento di Dio rivela che mentre Egli è comprensivo verso tutti e si adegua alle persone, ma Egli non tollera, né si fa conoscere da coloro che agiscono malvagiamente compiendo il male e adducendo come propria scusante il fatto che intanto la salvezza è per fede. Dio sfugge a chi cerca di raggirarlo. Egli è più astuto degli astuti. Se il valore delle opere buone è indispensabile per conoscere Dio e la sua volontà, non lo è di meno per chi ha posto fede in Cristo quale Salvatore e Signore. Una delle accuse fatte ai cristiani dai religiosi che si basano sulle opere per essere salvati è che nel presentare la salvezza solo per grazia, mediante la fede si disprezzano le opere. Invece è esattamente il contrario. Quando una persona diventa figlia di Dio per grazia mediante la fede, da quel giorno lo Spirito Santo che ha preso dimora in lei le infonde un profondo desiderio di compiere la volontà di Dio, cioè di compiere le opere buone. Ciò che sfugge a molti è che la parola di Dio ordina di compiere le buone opere, mentre si sta riferendo alla salvezza per grazia. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Efesini 2, 8-9. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Tito 2, 11-14. Sicura è questa parola, e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. Tito 3, 8. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri, per incitarci ad amore e a buone opere. Ebrei 10, 23-24. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Galati 6, 9-10. Anche se le opere buone non salvano, esse sono una dimostrazione che si ama Dio, perché amare Gesù Cristo significa osservare i Suoi comandamenti. Anche se le opere buone non salvano, esse sono indispensabili non solo prima di credere in Cristo, ma anche dopo. Eppure, alcuni abbagliati dalla luce del Vangelo perché la salvezza è per grazia, mediante la fede, non sembrano dare alle opere buone il loro valore, o meglio, il valore attribuito da Dio. Nella Scrittura leggiamo che un cammino retto, pieno di opere buone, è una dimostrazione che si è figli di Dio. 1 Giovanni 3, 10, e le preghiere verranno esaudite a motivo delle opere. 1 Giovanni 3, 21-22. Inoltre, le opere buone sono indispensabili perché mentre facciamo del bene siamo impossibilitati a compiere il male. Galati 5, 16, e diamo agli increduli un motivo per lodare Dio. 1 Pietro 2, 11-12. Chi cammina rettamente sarà a sua volta sostenuto. Salmo 41, 1-3. Regnerà con Cristo. Apocalisse 2, 25-27. E rimarrà in piedi nel momento della prova. Matteo 7, 24-25. Queste sono alcune delle grandi benedizioni di chi sarà rivestito delle buone opere, mentre per chi le disprezza avrà vergogna alla venuta di Cristo. 1 Giovanni 2, 28. E ne avrà un danno perché non riceverà nessun premio. 1 Corinzi 3, 10:15. Rimangono due interrogativi non da poco. Si può essere figli di Dio anche se non si compiono delle opere buone? Come ritenere coloro che si dichiarano salvati e non camminano secondo la verità? Poiché solo Dio conosce i cuori, quando si parla di salvezza è sempre bene non esprimere giudizi che provengono da opinioni personali, ma considerare come la parola di Dio si esprima in merito. La Scrittura definisce bugiardi coloro che hanno un cammino non conforme alle loro dichiarazioni. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui, è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve camminare anch'egli come camminò lui, 1 Giovanni 2:3-4. Quando Dio dichiara bugiardo qualcuno, questo lo è veramente. Dobbiamo uscire fuori dalle nostre convinzioni e accettare che siamo bugiardi se affermiamo di credere e amare Cristo Gesù e poi non seguiamo i suoi comandamenti. Anche se le opere buone non salvano, esse devono essere presenti per conoscere Dio e per dimostrare che si ama Cristo Gesù. Per chi ha posto fede in Cristo e si trovasse smarrito e vinto dal peccato, è indispensabile un ritorno alle buone opere. Diversamente, come dice il profeta Osea, non vi è speranza. Le loro azioni non permettono loro di tornare al loro Dio, perché lo spirito di prostituzione è in mezzo a loro e non conoscono l'Eterno. Osea 5:4. A nulla valgono le nostre giustificazioni se il nostro rapporto con Dio è precario o nullo, perché Lui va incontro a chi gode nel praticare la giustizia e si ricorda di Lui nelle tue vie. Isaia 64:5. Il che vuol dire compiere le opere buone. Aprile 2005, Ellero.